Io sono qui. Voi siete qui. Di Matteo Caccia. Mi viene in mente che nel Medioevo, per stabilire chi avesse ragione, usavano delle prove di forza e chi riusciva a estrarre la spada dalla roccia era destinato ad essere re. E allora ce la devo fare, perché quella bici è mia. E che mi sembra un'impresa insormontabile. Sono alcuni minuti che armeggio con il tenaglione sulla catena e sul lucchetto, ma non ne vengo a capo. Inizio a sudare, mi sento osservata. Non sono una ladra, a cavolo la bici è la mia. È possibile trovarsi in questa situazione? Mi chiamo Beatrice Orini, ho 29 anni, abito a Brescia, insegno italiano agli stranieri e collaboro a un quotidiano locale. Già non vedo l'ora di sentirla, Beatrice, più tardi al telefono, perché mi sembra simpatica. Forse deve essere il bresciano che mi mette sempre una certa dose di simpatia addosso. Sono le 16:07, questa è Radio 24, io sono Matteo Caccia, 349-238-6666. Oggi si parla di strappi alle regole, di tutte le volte in cui avete semplicemente deviato un po' il vostro percorso, che fosse professionale, che fosse umano, che fossero delle regole morali o etiche, che poi è la stessa roba, o appunto legate al lavoro che state facendo, perché la storia di Beatrice che ci ha mandato e che noi racconteremo tra poco racconta proprio di quello, di una bici che è legata a un palo che è la sua e lei che chiede aiuto ad un poliziotto per rubarsela, ma è la sua, quindi tanto vale. 349-238-6666, è arrivato questo messaggio sul profilo Facebook del programma che è Matteo Caccia, io sono qui. Dan, sarà Daniele credo. Spero che su Facebook vale tutto. Domani farò uno strappo alla mia etica del lavoro e in incognito dal mio titolare, vergognosamente giustificato dall'inderogabile necessità di accompagnare mia madre a una visita medica. No, questa è orribile, ma mica devi dare una giustificazione al lavoro, devi dire semplicemente prendi un permesso, no? O sbaglio? Paolino, lo chiedo a te. Sì, chiedi un permesso, domani non ci sono. Vabbè, comunque, domani farò lo strappo all'etica. Vado a fare un giorno di prova in un'altra agenzia di comunicazione per un eventuale contratto da art director. Speriamo bene, fatemi in bocca al lupo. Ma questo si chiama mercato del lavoro, non è uno strappo alla regola. Cioè, che uno si guarda in giro, direi, no? O no? 349-238-6666. Prima di raccontare la storia di Beatrice, però, io vorrei fare un excursus molto veloce che riguarda la puntata di ieri. La puntata di... No, da capo. Questo programma racconta delle storie che sono le storie degli ascoltatori o delle persone che magari non ascoltano e hanno semplicemente sentito parlare di questo programma e hanno voglia di raccontare un piccolo episodio della loro vita e di farlo in una pagina. Questo episodio noi lo prendiamo e lo raccontiamo in diretta da qui per i prossimi mesi. Arrivano storie di tutti i tipi, come potrete immaginare. La storia di oggi, che è una storia di estrema leggerezza, che racconta di una sbadataggine e di un poliziotto che fa una cosa che forse non dovrebbe fare. E storie invece come quella di ieri, che sono legate a un tipo di vita particolare, che in quel caso era la vita militare, dove succedono un certo tipo di cose. Abbiamo sentito il protagonista di quella storia, che l'ha scritta, che era l'autore ed era anche il protagonista. Ci ha raccontato com'era andata, ci ha chiesto l'anonimato. Non c'è giudizio nelle storie che racconto. Sono semplicemente delle storie che appartengono alle vite delle persone che hanno voglia di metterle in gioco. Punto. Non c'era intenzione né di offendere, tantomeno di mancare di rispetto a nessuno. Questo lo dico per i messaggi che sono arrivati alla mail. Voi siete qui, @radio24.it e anche sul profilo Facebook, che ripeto, è Matteo Caccia, io sono qui. Torniamo però ad oggi, perché oggi si parla di questo. Si parla di una bicicletta che viene rubata e della sua proprietaria che cerca disperatamente aiuto per liberarla. Lei si chiama Beatrice e la storia è questa qui. Ecco, e adesso? Lo pensavo mentre tenevo gli occhi fissi sulla bici, come se si potesse muovere da sola. L'avevo legata la mattina a un palo davanti alla stazione, prima di pendolare verso l'università. Ora, e sono solo le 10:30 di sera, tornata dalla mia città con lo straziamento della tesi, quella della mia prof ancora in testa, ma anche con un umore abbastanza allegro da birra con gli amici. Ora ero pronta a riposare. E invece mi accoglie una bella sorpresa. È impossibile slegare la bici. Il motivo è molto semplice. Avevo perso la chiave del lucchetto. Anzi, per la precisione, la mia unica chiave del lucchetto. Bella mossa. Brava Beatrice. E adesso? Cosa faccio? La lascio qui tutta la notte? E poi finirà i suoi giorni attaccata a questo palo. No, se la lascio qui me la ruberanno. O Se non ci riescono, la mutileranno di ruote, sellino e lasceranno solo lo scheletro. Ero già stata vittima di due furti di biciclette. Con tanti corpi monchi di bici altrui visti in giro, avevo solo voglia di pedalare veloce verso casa. Non mi andava di arrendermi e non volevo abbandonare il mio mezzo amico. E invece, naturalmente, non avevo nient'altro da fare che lasciarlo dov'era e sperare di trovare una soluzione magari più tardi. Avevo la testa piena di pensieri, perché io perdo tutto e chissà, forse vuol dire qualcosa. Sono fatta così, vivo sul Baobab. E in questa bella cittadina i mezzi pubblici scompaiono al crepuscoli. Qui vige la cultura del macchinone. E adesso mi tocca camminare. E ben mi sta. La bicicletta è sempre stata una presenza importante nella mia vita, fin da piccolissima, come passeggera sulla bici dei miei. Poi l'ho adottata come principale mezzo di trasporto, anche perché per molto tempo mi sono rifiutata di dare un senso alla mia patente. E poi è divertente, voglio dire, è solo con la bici che riesci a scontentare tutti, facendo arrabbiare, soprattutto in città, pedoni e automobilisti insieme. Il giorno dopo mi sveglio combattiva. Decido di rivolgermi al signor biciclettaio, che è delizioso come sempre. È un signore di cui non ho mai scoperto il nome. Parla poco. E anche io quando parlo con lui. O in assoluto. Lui però mi ha sempre aggiustato decine di gomme, freni, raggi stortati. È quello che ho di più vicino a uno sciamano. Mi dice, fai così, prova con questa. E mi allunga una tenaglia dalle dimensioni decisamente importanti. La infilo per metà nella mia capiente borsa e sono un po' rincuorata e un po' preoccupata. La luce, la gente, la tenaglia, io che spezzo la catena, che ho messo il giorno prima io stessa, per liberare tra l'altro la mia bici. Metti che mi prendono per una ladra. Come faccio? Ma soprattutto ci sarà ancora la bici? Poveretta, l'ho comprata per pochi soldi in un mercatino francese. Metà da corsa e metà da città. Pareva un favoloso assemblaggio di pezzi diversi. Alla fine del mio soggiorno in Francia avevo costretto mio papà a cacciarla in qualche modo in auto e riportarla in patria. E me ne ero innamorata. Mi accompagnava dappertutto, sembrava l'unica a rallegrarsi del mio rifiuto dei motori. E ora chissà. E invece arrivo sul posto e lei è ancora lì. Mi attende al sole, circondata da voci e clacson, come se niente la potesse disturbare. Forse, siccome è straniera, non capisce quel che dice la gente. È un sollievo, ma niente risolto. Anzi, pochi metri davanti alla mia creatura, e al palo con un cartello vietato legare cicli e motocicli, sosta una macchina della polizia. In piedi, fuori dall'auto, ci sono tre poliziotti. E adesso cosa faccio? Però sono una ragazza fiduciosa e provo a prevenire. Salve, scusate, avrei un problema. Spiego tutta la mia disavventura e azzardo un... Sapete com'è? Vorrei provare a recuperarla. I poliziotti non sanno se ridere o arrestarmi, quindi nell'attesa si guardano un po' stupiti e uno mi chiede «E come?». Io senza colpo ferire rispondo «Beh, con questa!» e sfilo dalla borsa la tenaglia, dalle dimensioni decisamente importanti. C'è stato un periodo, soprattutto durante la mia adolescenza, in cui sfidare l'autorità, da quella paterna a quella scolastica, era quasi un'urgenza. Mentre adesso direi che sono molto più collaborativa e poi anche fortunata, perché comunque ho incontrato sempre persone in divisa comprensive di fronte a questa mia irrecuperabile sbadataggine. I poliziotti sono gente abituata a tutto, però vedere me con un attrezzo alto un metro, che loro sono abituati a vedere in mano a ladri professionisti, li ha sorpresi. Stanno un po' zitti, parlano tra loro, poi si girano verso di me e io capisco che hanno deciso di stare dalla mia parte. Sei davvero tua, mi dicono, e se ci riesci? E lì mi viene in mente che nel Medioevo, per stabilire chi avesse ragione, usavano delle prove di forza. E chi riusciva a estrarre la spada dalla roccia era destinato ad essere re. E allora ce la devo fare, perché quella bici è mia. Solo che mi sembra un'impresa insormontabile. Sono alcuni minuti che armeggio con il tenaglione sulla catena, eppure sul lucchetto. Ma non ne vengo a capo. Inizio a sudare. Mi sento osservata, ma non sono una ladra. Ma cavolo, sta bici è mia, è possibile che mi trovi in questa condizione? Poi sento una voce maschile, un po' scocciata. Dai, fai una cosa, dammi qua. Mi volto e vedo uno dei poliziotti che mi tende la mano e mi regala il suo aiuto. Tira sull'aggeggio e con un colpo secco, tlac, la mia bici è libera. Sono felice. Sorrido al poliziotto che mi guarda scuro e mi dice con tono severo: ti rendi conto che se non è tua, io ti ho aiutato a rubarla davanti a tutti? Io faccio di sì con la testa, ma lo rassicuro con un gesto molto italiano, che da solo vuol dire: stai tranquillo, hai scommesso sul cavallo giusto. Va bene, senti, ora butta via sta catena, metti via quella tenaglia e vai dove devi andare. Per un attimo ho pensato di proporre agli agenti di diventare miei complici in piccoli furti alla luce del sole, ma non sono il tipo. E invece ho continuato a vivere sul baobab, dedicandomi a lavori legalmente precari. E alla fine penso di non aver sbagliato. Surprise, teardrops flow like a river flows, kissing goodbye though. June on ice cream melts in the sand, waiting July for what it represents. August reminds me of my content, crying September, it never ends. Avere un mestiere significa anche dovere sottostare a certe regole. Alcune sono legate a quello che fai, altre al modo in cui lo fai. Quelle del primo tipo sono semplici, tipo, che so, che se fa troppo freddo non si dà la colla sulla suola di una scarpa per aggiustarla, perché non funziona. E quindi se fai il calzolaio è giusto che certe cose tu le sappia. Ma se fai l'autista di metropolitana, ad esempio, devi sapere bene quando aprire e chiudere le porte, no? E non puoi sgarrare. Poi ci sono situazioni che lasciano più spazio all'interpretazione. Se fai il maestro di scuola, ad esempio, avrai sempre davanti bambini diversi e per ognuno ci sarà il modo adatto per insegnare e quello sbagliato, probabilmente. E ci sono poi, forse in tutti i lavori, certe regole che si possono ridiscutere. Magari temporaneamente sospendere. Io non lo so se qualcuno può dire se sia giusto o sia sbagliato. Forse solo che a volte accade. E basta. Un bel po' di anni fa, quando ancora giravo per la provincia di Novara in Pullman, è accaduto un episodio di quelli che ti ricordi e che sa molto di strappo alla regola, ma che nessuno si è sentito di biasimare. Almeno non all'epoca. Era inverno e non ricordo se stavo andando o se stavo tornando da scuola. Comunque ero su un autobus, che dalle mie parti è ancora un mezzo molto usato, in particolare d'inverno, un po' per il gelo, un po' per la nebbia, e soprattutto per chi vuole andare da fuori Novara al centro, e viceversa. All'altezza della caserma, a un certo punto, sale un ragazzo, coi capelli cortissimi e un sorrisone sulla faccia. Senza curarsi di nulla, di nessuno, si va a sedere vicino al finestrino e si mette a guardare fuori. A me sembrava un po' strano. Aveva un borsone da militare, ma era in borghese. Non ero esperto, però non l'avevo mai visto su quella linea e i pendolari alla fine si conoscono tutti. A un certo punto sale il controllore e comincia il suo giro di controlli degli abbonamenti e dei biglietti che non si possono fare in vettura, devi farli giù, devi comprarli in tabaccheria, all'edicola. Arrivato a me gli mostro la tesserina come se non mi conoscesse, ma è una specie di rito, un po' come l'appello a scuola. E poi arriva il turno del ragazzo col borsone. Lui si gira verso il controllore tutto sorridente e gli chiede se ha bisogno di qualcosa. Sembra una specie di extraterrestre, tipo quei film in cui un alieno cade sulla Terra e prende le forme di un uomo, no? E non sa niente di quello che succede intorno a lui. E tutto è nuovo. Il controllore gli dice che dovrebbe avere un biglietto per stare su quell'autobus. Il ragazzo si guarda nelle mani, dove ha solo questo tubo di cartone, e dice che non ce l'ha il biglietto. E subito diventa un po' triste. Il controllore fa una faccia comprensiva, gli chiede cosa c'è nel tubo di cartone, magari il biglietto lì dentro. Il ragazzo dice di no, che lì dentro c'è solo il suo foglio di congedo e che la naia finalmente è finita e sta tornando a casa. E lo dice col sorriso di prima. Io avevo visto lo stesso controllore, proprio la stessa persona, fare una multa enorme a uno che era senza biglietto qualche mese prima. Ma quello si era comportato come fosse un delitto chiederglielo, aveva cominciato a fare una scenata isterica. Questo ragazzo invece è simpatico, però la regola è la regola, no? Penso. Il controllore invece lo guarda fisso e mentre l'autobus fa una curva un po' brusca, gli dice che per oggi quel congedo vale come biglietto e che se lo tira fuori lui poteva obliterarlo. È stata la prima volta che ho visto che non ero l'unico a fare qualche strappo alla regola. Così, una volta ogni tanto. No non rispettare maniacalmente l'orario di lavoro, scrive Paolo, 349-238-6666, fino a quando la ditta l'ha reso flessibile per tutti. È stata una vittoria del buonsenso. Si parla di strappi alle regole, in questo caso da parte del poliziotto e non da parte di Beatrice. Però Beatrice, che ero già curioso di sentirla prima, adesso ho veramente una cosa da chiederle. Pronto Beatrice? Sì, pronto. Ciao, come stai? Ciao, bene, sono ufficialmente sconvolta dal mio accento bresciano perché mi stavo ascoltando. E non te lo sentivi ovviamente? Non così. Poi la cosa drammatica è che io insegno italiano agli stranieri, per cui mi immagino tutti questi cinesi, pakistani, brasiliani che andranno in giro parlando un po' così, dai. Silenzioso accento. Senti, tu insegni italiano in una scuola per stranieri, come funziona? Ma ho diversi incarichi, quindi ho insegnato a bambini, ragazzi, adulti nelle scuole oppure in istituti privati o con i fondi della regione per i disoccupati, per cui insomma varie cose. E adesso quando è già iniziata? Sì, la scuola è già iniziata, io nelle scuole non ho ancora ripreso, sto facendo con gli adulti per adesso. Ma che orari hanno? La serali? Sì, adesso per esempio devo andare in un'azienda fuori Brescia dove c'è un corso di italiano per degli ingegneri brasiliani. Ma tenuto, cioè è l'azienda che istituisce il corso? L'azienda che si affida a un istituto di lingua per cui io collaboro e per offrire questo servizio a delle persone. Ma quindi insegni grammatica, Beatrice? Anche lingua, insomma. Cioè adesso agli ingegneri brasiliani a che lezione siamo? Ma loro me ne avevano presentati come super principianti, in realtà se la cavano bene, anche perché il portoghese comunque non è poi così distante dall'italiano, per cui come comprensione orale ci sono... Invece di letteratura, hai dei corsi di letteratura italiana? Ma che sono nelle graduatorie per supplenze di lettere, ma... Quanti anni hai, Beatrice? 29, quasi 30. E ti sei laureata? Nel 4-5 anni fa, nel... inizio 2007. Cosa ci facevi invece a Parigi, eri in Francia, dove hai trovato la bicicletta? No, a Grenoble. A Grenoble? Sì, sì. A Grenoble c'è il ponte più alto da cui si fa bungee jumping, credo. Sì? Sì, beh, è l'unica cosa che so su Grenoble, quindi puoi immaginarti. Senti, quindi eri in Erasmus lì? Sì, sì, sì, sì. Oh, poi brava, hai perso anche tu il tuo bell'anno all'estero. Certo, grande vacanza. Senti, veniamo invece, c'è un'espressione che non so se è bresciana o è tua. Cosa vuol dire vivo sul baobab? No, temo che sia mia più che bresciana. Vivere sul baobab... Cioè, tipo stare sulla montagna, scendere dalla montagna del sapone, quella roba lì? Sì, cioè un po' fra le nuvole, con la testa altrove, un po' più in alto, insomma. Ma perché sul baobab? Non lo so, mi suona bene. Ma perché è alto il baobab? Sì, alto, grande, non lo so, mi suona bene. Ma il baobab è la pianta africana, quella che sta nel deserto, no? Sì, però sta nella savana. Va bene, senti Beatrice, io ti ringrazio. Volevo anche solo sapere se alla fine poi, perché lo chiedeva un ascoltatore, se la tenaglia gliel'hai riportata a sto ciclista? Chiaro? Sì, ma ci vado ancora, siete, il signor biciclettaio. Siete amiconi. Sempre un po' disperato, ma... Ma senti, ma uno straccio di fidanzato che veniva lì con sta tenaglia, te la spaccava sto lucchetto, no? No, all'epoca non credo, volevo cavarmela da sola, invece mi sono fatta aiutare dal poliziotto. Senti, ti ringrazio moltissimo Beatrice, ti auguro una buona giornata e grazie per il racconto. Grazie. Ciao, grazie. 349-238-6666. Federico, bella storia, ma io ne avrei scelta un'altra. Peccato però che le storie le scegliamo noi. Voi siete qui. Nella foto che ci ha mandato, Beatrice sta guardando da un'altra parte, non sta guardando l'obiettivo. È un po' l'espressione di chi è imbarazzato di fare le foto e quindi guarda altrove mentre la stanno fotografando. Ha i capelli che hanno l'aria di essere molto vaporosi, di quelli che se non li sistemi potrebbero esplodere. Ha un filo di trucco, ha un piercing al naso, ha dei begli occhi con un taglio leggermente orientale e ha decisamente l'espressione di una che vive sul baobab. Voi siete qui. 349-238-6666. Vivere sul baobab, scrive Marco, è un'espressione presa dal Piccolo Principe. E poi ancora, i piccoli strappi alla regola di Elisa sono mangiare il gelato la mattina. Va bene, chissà come sono le tue regole. E invece, Loris, io faccio il lavoro più bello del mondo, sono un insegnante di sostegno, e lo strappo alla regola è utile se lo fai per aiutare il tuo alunno, disabile oppure no. E poi invece c'è un SMS di quelli che hanno la... che hanno un tono, sapete, ci sono degli SMS quando arrivano che hanno proprio un tono, cioè che quando li leggi potresti capire che cosa pensa e come l'ha immaginato la persona che l'ha scritto. E il tono è questo qua. Mi abbassi un attimo. Guardi che nella faccenda dell'estrazione della spada della roccia la forza non c'entra. 349-238-6666. Si parla di strappi alle regole. Parlandone l'altro giorno insieme a Tiziano, ci è venuto in mente uno degli esempi più lampanti riguardanti la letteratura di uno strappo alla regola. Quello che viene ricordato come Preferirei di no, e che è un libro che si chiama Bartleby, lo scrivano. In questa esatta posizione sedevo quando lo chiamai, spiegando in fretta cosa desiderassi da lui, ovvero che esaminasse con me un breve documento. Immaginate la mia sorpresa, o meglio la mia costernazione, quando, senza muoversi dal suo privato, Bartleby, con voce singolarmente mite, ma ferma, replicò: «Avrei preferenza di no». «Preferenza di no», ci feci eco, alzandomi in grande eccitazione e attraversando la stanza d'un balzo. «Come sarebbe a dire? Cosa vi prende? Voglio che mi aiutiate ad esaminare cos'è sto foglio. Prendetelo!» E glielo gettai. «Avrei preferenza di no», ripetegli. Lo guardai impietrito. Il suo volto era smunto, composto, gli occhi grigi, tranquilli e velati. Non un segno di turbamento lo animava. Ci fosse stata nei suoi modi la minima traccia di inquietudine, di collera, impazienza, impertinenza. In altre parole, ci fosse stato in lui alcun tratto d'ordinaria umanità, senza meno l'avrei cacciato di forza dai miei uffici. Alcuni giorni dopo, Bartleby terminò la stesura di 4 prolissi documenti. Avendo predisposto tutto, chiamai nella mia stanza Turkey, Nipper e Ginger. Quando chiamai Bartleby perché si unisse a questo interessante gruppo, dissi: «Bartleby, presto, sto aspettando!» Udì il lento stridere della sua sedia sul nudo pavimento, e presto egli apparve sostando all'ingresso del suo eremo. «Cosa si comanda?» le copie, dissi io, dobbiamo esaminarle!» «Avrei preferenza di no». Baobab è la pianta più alta del mondo e guardi tutti dall'alto. Però non sei firmato. In Vespa senza patente, 16 anni, il mio strappo alla regola, faccio incidente e mi salta al ginocchio. Ci ho guadagnato una moglie bellissima e 4 figli. E come? Cioè, spiegaci perché almeno, tipo perché è lei che ti è venuta addosso. O, cioè, ma nel senso che proprio facendo l'incidente? 349-238-6666 oppure voi siete qui, @radio24.it. 24 con 2 T. Ringrazio anche tutti quelli che mi scrivono dei messaggi e sono già arrivati anche sul profilo Facebook del programma, che riguardano lo strappo alla regola a proposito della finale di ieri sera tra Djokovic e Nadal. Quello è uno strappo alla regola, il fatto che Djokovic abbia vinto. Tranquilli che col tempo si rimetterà anche lui. Tra l'altro, per tutti quelli che trovano, e poi chiudo la parentesi, per tutti quelli che trovano Nadal antipatico, io vi consiglierei di andare a vedere sul suo profilo Facebook, che è seguito da 8 milioni e 600 mila persone, i video che lui posta. Sono dei video di 20 secondi, non durano di più. Lui ha una faccia da tenerone e da ragazzone della provincia spagnola che non potrete non innamorarvene. 349-238-6666. Arrivai davanti al cinema in motorino. Presi la catena e legai il mezzo a un palo. Ma non era il mio, il motorino che avevo legato al palo. Lo capii solo quando all'uscita trovai la catena rotta, il motorino ancora lì, e pensai: furbi sti ladri. Poi vidi un biglietto e capii che il furbo della situazione ero io. Una situazione simile la vive Emanuele. Molti anni fa, dei ragazzi mi chiesero se potevo dargli una mano perché la loro Vespa 50 Special non voleva accendersi. Allora io, con l'aspirazione di voler aiutare il prossimo, gli ho staccato la mascherina anteriore, gli ho collegato i cavi che permettevano l'ascensione. Loro contenti, tanti ringraziamenti, io super felice. Al ritorno verso casa trovo la sorpresa: i proprietari della Vespa che imprecavano per il furto della loro Vespa. E io, ragazzo della provvidenza, mi sono sentito piccolo e molto ingenuo, per non dire altro. Comunque sono rimasto zitto e sono andato via, collocato fra le gambe. 349-238-6666. Oggi è arrivata un'altra mail in attesa di andare in onda. Era una mail di Francesca che raccontava una storia che ha a che fare, vabbè, con uno strappo alla regola, ciascuno ha le sue regole, quindi potrebbe sembrare, per alcuni potrebbe sembrare poca roba, ma la storia è molto interessante. Alcuni considerano saltare le lezioni non uno strappo alla regola, ma una normalità. Per me non è mai stato così. Al liceo in realtà non saltavo più per paura di incontrare mia madre per strada che per motivi ideologici. All'università invece era diverso. Me l'ero scelta io e i miei mi mantenevano, per cui saltare esami e lezioni secondo me era sbagliato. Tutto qui. Era un privilegio che mi dovevo meritare. Un giorno però arriva la telefonata a cui non posso dire di no. Franci, non ci crederai, dopo mesi e mesi di tallonamento sono riuscita a farmi concedere un'intervista dai Subsonica. È una mia amica, è una mia carissima amica. Dai, le rispondo io, ma cosa hai detto al loro manager? Niente, che scrivo per il Mucchio. Ah, ma tu non scrivi per il Mucchio, giusto? Ma sì, dettagli. La mia amica è eccitatissima. Mi spiega che devo assolutamente accompagnarla a un festival, a un paio d'ore di macchina. Lei non ha la patente. E devo fare finta di fare la fotografa ufficiale, altrimenti non sarebbe credibile. Io ci penso un po' su. Ho lezioni, un esame il giorno dopo e pure un seminario da seguire. Ma poi il criminale che c'è in ognuno di noi prende il sopravvento. Al diavolo l'esame. Al diavolo che non sono una giornalista e che non sono nemmeno una fotografa. Corro a casa, prendo la mia reflex, che di professionale aggiusta la borsa, e partiamo. Arrivati all'entrata del festival, ovviamente ci domandano gli accrediti, che non abbiamo, e poi le tessere da giornaliste, e non abbiamo neanche quelle. Io comincio a tremare, comincio a pensare che è stata proprio un'idea del cavolo. La mia amica però non demorde, e con una faccia tosta e incredibile si rigira velocemente in mano la tessera della biblioteca e riesce a passare. Mi guarda e mi sgrida in modo molto professionale per essermi dimenticata la mia tessera. E poi mi trascina dentro, ricordandomi, e ricordando al servizio security, che abbiamo un appuntamento e abbiamo molta fretta. Non so come, ma entriamo. L'intervista con Max Casacci è piacevolissima. Intravediamo anche un indaffaratissimo Busta che sta preparando gli strumenti per il palco. E alla fine veniamo addirittura rincorse da Samuel, che vorrebbe anche lui dire qualcosa per l'intervista e fare una foto. La mia amica tira fuori dal carnet un altro paio di domande. E dopo la foto ce ne andiamo con un sorriso da un orecchio a un altro. Ho saltato lezione, seminario e ho pure mentito. Ma ne valsa la pena. Guarda le partite giocate da Nadal contro Djokovic quest'anno e ti renderai conto che ieri sera è stata la regola. Jacopo da Vicenza. Jacopo, guardati le partite giocate da Djokovic contro Nadal prima di quest'anno e capirai qual era la regola. Grazie mille a lui, grazie a Paolino Corleoni, a Franco Piantanida, a prestito da Tempo di Sport, grazie a Tiziano Bonini e a Stefano D'Andrea. La storia di oggi era quella di Beatrice e degli strappi alle regole. Quella di domani è la storia di Anna Giulia e si parla di diventare grandi. Il tempo è davvero un'idea volubile. Ricordo ancora che da bambina sentivo tutti dire ai 17enni che si avviavano alla maggiore età che dopo aver soffiato le 18 candeline il tempo sarebbe volato. Io non sono stata una di quelle che hanno atteso con ansia l'arrivo del compleanno che mi avrebbe fatto diventare adulta, ma questo discorsetto apocalittico me lo sono sorbita pure io. Quando me lo dicevano annuivo senza dargli troppo peso, perché un anno in più non avrebbe certo cambiato le cose, né tantomeno dato una botta di acceleratore alla mia vita. Cavolo. Avevano ragione.